articolo qualsiasi, oggi ce l'abbiamo coi giornali, sì, un articolo qualsiasi sul Corriere della Sera, ce l'abbiamo sempre di più col Corriere della Sera, quello del primo febbraio, che pur restando di solito una testata che normalmente mantiene la posizione filoatlantica e filogovernativa sui problemi del Medio Oriente, di solito non è alieno ogni tanto da qualche gesto di buona volontà informativa. E stavolta no, stavolta abbiamo sotto gli occhi un articolo qualsiasi di quelli che, pur essendo datati da Baghdad o da Amman o da qualche altra capitale della zona, sono evidentemente confezionati in redazione con le notizie che le agenzie ormai riversano ininterrottamente sui monitor dei giornalisti. E infatti vi si riferiscono le solite banalità, vi si legge che sul cielo iracheno si succedono i raid angloamericani, che a ogni missile che arriva a destinazione i comandi alleati dichiarano di aver agito per legittima difesa, che la prova di forza e di nervi col regime di Baghdad non sembra produrre al momento nessun risultato, eccetera eccetera. Niente di nuovo dunque e niente di interessante, tanto ormai sull'argomento si è scritto di tutto, tutti hanno le proprie opinioni, il punto di vista per cui raid ed embargo sono forse una cosa spiacevole, ma è Saddam che, proprio se ricerca, domina incontrastato l'opinione pubblica, e non basteranno certo le proteste di pochi pacifisti o di pochi analisti di cose internazionali per far prevalere a livello di grande stampa un giudizio più equilibrato. Forse per questo che l'estensore anonimo del nostro articolo qualsiasi ha deciso di sfruttare una delle informazioni colte sul monitor per guadagnare qualche punto in più. Il problema per il medio giornalista governativo è quello di trovare qualche argomento in più per sostenere la posizione americana e svalutare quella irachena, no? Ora, i raid non sono una bella cosa. Per quanto Saddam se li meriti, è meglio lasciarlo in secondo piano. Anche l'embargo, con tutti i suoi effetti disastrosi sulla popolazione civile, non è esattamente una chicca, ma sull'embargo qualcosa di più si può dire. Si può scrivere, per esempio, che non è grave come si dice. Detto fatto, il sistema delle sanzioni imposto dall'ONU nel 1990 è stato da tempo alleggerito con l'accordo petrolio in cambio di cibo. Le sanzioni in sé, benché siano utilizzate dal regime come arma di propaganda presso la popolazione, ma guardate un po', in realtà sono sempre meno rigide. E perché l'affermazione non venga considerata gratuita, si fanno saltare dal cappello un paio di cifre. Da ieri, sentite un po', la razione alimentare distribuita ai civili da 9 mesi a questa parte include anche 140 grammi di formaggio a persona. Un nuovo alimento che va ad aggiungersi a farina, riso, zucchero, tè, latte in polvere e sale da cucina, distribuiti al prezzo simbolico di 150 dinari, meno di 200 lire. Tre cifre, eh? Il commento è sottinteso ma inequivocabile. Per meno di 200 lire questi benedetti iracheni si possono approvvigionare di ogni ben di Dio. Farina, riso, zucchero, tè, sale, latte in polvere e, come se non bastassi, 150 grammi di formaggio, e hanno anche il coraggio di lamentarsi. Propaganda, insomma. Quella, loro, è tutta propaganda. Il lettore medio non può che essere d'accordo. Lui sa che 140 di formaggio non sono mica una cosa da niente. La media formella di crescenza che appare periodicamente sulla sua tavola non pesa molto di più. La maggior parte delle diete con cui periodicamente si misura viene concedono a pasto meno della metà. E a lui naturalmente quella porzione costa più di 200 lire. Naturalmente ci sono molte altre cose che il lettore non sa. Non sa naturalmente cosa significano in termini di costo della vita 150 dinari per l'iracheno medio. Non lo sappiamo neanche noi, peraltro. Non sa quanto zucchero, quanto tè, quanto latte in polvere, quanto riso, quanta farina, quanto sale da cucina gli venga assegnato per quella somma, e non sa soprattutto se quei 140 grammi di formaggio gli vengano distribuiti ogni giorno, ogni mese, ogni settimana, ogni anno, una volta al secolo, non so. Che è una cosa che fa la sua bella differenza, perché tutto è relativo. I prezzi vanno valutati in base alla capacità di spendere degli interessati. E quando si parla di dosi, bisogna specificare, oltre alla quantità del prodotto, anche la frequenza con cui esso si rende disponibile. L'articolista non lo fa, E basta questo a togliere dal suo articolo qualsiasi valore informativo. Dire che ad ogni iracheno sono garantiti 140 grammi di formaggio senza spiegare ogni quanto è come non dire nulla facendo finta di dire qualcosa. È propaganda. È una forma perfetta e probabilmente pianificata di disinformazione. Però che vergogna sul più importante quotidiano del nostro paese.